Raffaella Carrà. Ha detto Raffaella Carrà. Ha detto Platinette. A ci gioco. Flipper. Non è che abbiamo un delfino, non è solo Flipper. Cosa? A così dai che cotto. E beh, ciao Claudio, ciao Flippero. E che ha risposto? Tu Flipper ti chiami. Se non ti chiami Flipper perché dici che non c'è Flipper. Se ce la ridi burro, grazie a te, Gioia. E allora, grazie. No, c'era Luca. Mi sembrava lui. Luca Flipper, mi pare più un biliardino che un Flipper. Ah, così, grazie. E allora? Già va bene. Ehi, ma vai da quanto a dire. Sembrava bello stamattina, poi si è alzato quel capo dal venticello. Boh, arruinata la vita. Col venticello ha fatto sì che non piovesse, quindi lascia di stare il venticello, che non piove almeno, capite? Almeno non piove, se no oggi avrebbe piovuto a dirotto, perché nella bassa, a sud, nella zona di Cagliari e Olbia stava piovendo stamattina, anche all'ora di pranzo. Già lo so, ma parlo che sul venticello è ghiacciata l'aria. Maestrale, grazie. Maestrale. Infatti ci sta male, da poi mi posso un giro. Ma quando ci visto quella che ci vuoi su fredda, dice, oh là che ne sta in garage, la moto. E c'è se ne capizzano. Ehi, va bene. Non c'è nessuno che si convinci. Luca Manicomio sarà su. No, Luca Manicomio è nel canale 10. Adesso già viene qua, dai. C'è anche Giulio nel 10. Giulio, qua sì. Giulio. Andiamo, che è? Allora metto la 27 anche, là, se hai preso. Io già sono qua, grazie, dai, sono in soggiorno. Oh, Cla, per la cronaca, Luca ne ha attaccato di nuovo tutte le antenne. Le ha attaccate? Già lo so, se gli ho detto io stamattina che se non le attaccava mi incazzavo. No, le ha levate proprio, le ha levate. Dato che si è rotto le balle, che non c'è mai nessuno. E gli ho detto che la gente si riposa, la gente ha da fare. Ne ha attaccato di nuovo tutto. Dato che non c'entra più. Ma anche qua in PMR? K. Non ho dato il video, le ha attaccato l'antenna in diretta. Ma secondo me c'ha problemi. Ha problemi forti, a me mi ha mandato un audio all'1:30. E l'ha giunto a me, non mi ricordo, all'1:30 alle 5. Perché io all'1:30 in radio non c'entro. Ma ti pare devo entrare all'1:30, cazzo, non avevo manco iniziato a mangiare, poi domenica, oggi. Capito? Cioè, mio genero, mia figlia, cioè, non posso stare in radio. Se non si è offeso Baghiscio, ma non penso. Io gli ho detto, ci sentiamo verso le 5. Io dall'1:30 alle 5, mollami, non mi zicca proprio in radio. In radio però non come forse a frainteso, boh, non lo so. Ma gli ho detto, la gente ha da fare. Quando lui c'ha da fare, mica gli rompiamo le balle. Parliamo noi. Quando molte volte non c'è nessuno, mica, insomma. Se non c'è nessuno, pazienza, cosa vuoi fa? Qualcuno ogni tanto già entra, adesso vedi, siete voi, qua va bene. Poi se non c'è nessuno... Ripeto, ognuno di noi ha sempre da fare. Io quando ho da fare, tipo stamattina che stavo riparando quei televisori, no? Faccio un esempio. E sono rimasto in ascolto. Poi se sparite non c'era più nessuno, né in 27 né in cosa, mica mi devo incazzare. Vuol dire se vi siete spostati e cioè c'era qualcosa da fare in casa. Ho capito, cazzo, ma sono le 5:30, permetti, dove vado a quest'ora, mi siedo, mi rilasso, c'ho la televisione, va bene, ma non mi pongo gas in radio dalle 1:30 ridumino, cosa c'è in mania con la radio? Ma cioè, ma finiamola per favore, dietro, non tratta io. Cazzo, sembra che si viva solo di radio, cazzo, dopo le 5, le 6, alle 7, 6:30, uno può fare due chiacchiere prima dell'ora di cena, cazzo, ma non mi pongo in radio dalle 1:30, no? Io gli ho detto, non c'è nessuno in radio, chiamato il PMR, non c'è nessuno, il 23 non c'è nessuno, non so, non c'è nessuno, ma è 1:30, aiuta a me, mollami, anch'io, vinta le zicco, non entro in radio. Non lo so. Sono scelte sue, io gliel'ho letto come la penso, gli ho detto anche Tino, li abbiamo letto tutti. Se ne ha tolto tutto, faccia come vuole, io non è che posso costringere la gente a cosa la devo dire, non lo so. Io gli ho detto di mollarmi a quell'ora, che io in radio, le radio sono spente a quell'ora, io le accendo alle 5. Dopo le 5 allora riprendo le telecomunicazioni, ma prima io non entro a... capito? C'è gente, poi oggi è domenica, mi sono usciti poco fa mia figlia con mio genero, sono andato a farsi un giro, cazzo di città in radio, Ed in Chivi nel salone, a me piace anche parlare, chiacchierare, scambiare due chiacchiere, capito? Beh, è giusto che sia così, è giusto, giustissimo, avanti, grazie. Ehi, noi gli ha attaccato alla radio, sempre così. Uno se al limite lo sente uno o due volte, quindi magari anche non aggiunga il papà, ma se non potrà la messa per capelli e va bene. Io non sento più Graziano. La prima lo accende spesso e lo accende acceso e se lo accende un po' di volte, no, appunto, noi che poi si sa. Grazie, io ho ascoltato in parte il tuo coso, forse non sei in posizione giusta, non lo so. Sì, ma io ripeto, l'ho già detto e lo continuo a ripetere, ognuno è libero di fare le scelte che vuole, io a lui gliel'ho spiegato, capito? Quando non c'è nessuno, non c'è nessuno, pazienza. Noi mi posso buonire sta mandando i messaggi all'ora di pranzo, accendi la radio, entra in radio, insomma non mi permetterei mai. Quando c'è gente si parla, quando non c'è nessuno c'è la biglia in culo, cosa me ne affutti? Non è che... Poi lui è un periodo che è così, ne vuole staccare tutto, io non le dico più niente. Quello che devo dire gliel'ho già detto, è una sua scelta, decida lui cosa vuole fare. Non c'è nessun problema, noi siamo qua in PMR, siamo in 27, siamo da tutte le parti. Quando non avemo gana, quando non avevo gana stiamo zitti. Beh, fate così. Chi è che ha detto mi senti? Penso se l'abbia lasciata la persona alle funzioni. Perché in caso di capite che in casa sua si sa fa nulla che non ha nulla di fare, pomeriggio. Non se la c'è da fare la sua chiacchierata. Penso di sì. Non lo so, Graziano, io non metto lingua. Ripeto, io quello che devo dire gliel'ho detto, se lo vuole capire la capisce, se no è grande vaccinato, faccia quello che vuole. Avanti Giulio. Va bene, allora disimpegnati e poi entra, ok? Ah Giulio, è passato. È impegnato un attimino e non è al posto giusto, dai. Già entra dopo. A me che non me l'ha mandato il video. Ah lui, perché me l'ha mandato il video a me? Cosa Grazia? Che sto controllando i cani, si sa mai. Dimmi. Sì, a cui mi ha fatto questo menù che mi ha mandato? Ma ti dimenticate pure la pure di acqua, come sta nel forno? Sì, il cagnolino. In giugazzata, si appena si dà, da lì, dorme e mangia e dorme. E mosca, non palesca. Un amico, aia! Tirriosa mi grazia, è tirriosa a volte, Canto si buona giugà, guarda, è micidiale. E poi c'è il cane di Maria con la buffiti, no, è la ringhia, mi ha sì. Aia, Stella, aia. E la c'è venne, giocando col cane? No, è in terra, È in terra, come vicino alla marina, Prendete la bambina, io. Fa la pipì, non in terra però, E abbiamo messo le... come si chiama? Le traverse. Aspetta, Lucarie, un attimino so. Eia. Bella di oggi, anche oggi ha scaldato. Ah, cosa? E fendeva. Buonasera. Ciao, Tino. Fendeva, Si sta preparando. Eia. Mi compagna di Graziano e di Claudio. Avanti, Graziano, senti a Tino. Eia, ciao, Tino. Riprendi il tuo che mi ha fatto due minuti. Ehi, ciao, grazie, ciao. Ciao Claudio. Come senti, a casa? Lì, dovevo essere, sta piovendo. Vabbè, pensavo in girella, là. No, no, no. Bene, sta arrivando lì. Sì, e ti ascolto abbastanza bene, dai. Ah, va bene, allora. Beh, il telefono usato sta IT. Guarda, non l'ho parcheggiato perché sono tutti i dati nell'iPhone e quindi devo rimettere tutto quanto lì, ma sono un po' così. Vabbè, comunque, è un telefono di scorta. No, infatti, è che ho perso dei numeri e non riesco a trovarli, comunque da pian piano troverò le persone. Guarda, se mi vuoi trovare sono in Piazza d'Italia io. Sì, è pigliati leva. Cazzo, perché più o meno sta, no? Qua sta iniziando. Cazzo, allora sta salendo da giù. Qua c'è ancora un po' così, boh. Beh, è normale, non se ne siamo con 4, uscire alle 7 e mezzo, piove quando va a portare il cane. Vabbè. Già va bene, va. Andava bene. Luca, ho visto che si è acceso un'altra antenna e... senza internet sono, Ci siamo sentiti prima l'ora di pranzo. Mi ha detto che se non pioveva piazzava tutto, invece Luca mi ha detto una bugata, bruchi si chiuderani. Ah, ne sai tu? Ah, sono passato 10 minuti fa. C'era 200, se non mi sbaglio. Allora già c'era... questo, lui, quasi di senti. Flippe! Ho un testa di ginocchio, non vuole entrare. Adesso ho abbandonato anche questa frequenza, che Claudio, si aspetti un attimino che stiamo facendo cosa con Luca. Sono Danilo, aspetta un attimino che stiamo facendo cosa con Luca. Ah, tu sei Dani. Ok, dai, va bene, già siamo qua allora, vai. Dile, se ne toglie l'antenna, scendo e spacco la testa. Ciao Dani, non fate l'amore. Ciao a tutti, stiamo facendo cosa che adesso me ne devo andare. Stai facendo quella roba là? Abbiamo le mani impregnate. Non è... mi sta dando roba che devo scendere giù veloce in campagna. Magari se dopo accendo la radio ci sentiamo. Ma perché non gliel'hai portato a fare quel lavoro, Dani? Quale lavoro, Cla? Quello del 140. Ah, no, ma l'avevamo fatto l'altro giorno in radio. Sono riuscito a regolarla, solo che non esce proprio come deve uscire. Ah, c'è un altro lavoro da fare, non c'è da fare solo quello lì, il trimerino, no? Ce n'è lavori da fare, caro mio. Infatti è per quello che io sto pensando di portarla a Fabrizio, dato che lui c'ha dove mettere le mani, con gli strumenti. Porta a Fabrizio, manco la Ianna a Dabri, Fabrizio, con i casini che c'ha in questo periodo. Dai, almeno il portone già me lo apre, almeno quello. ma dipende anche da Vatta che sta facendo i nuti ora. No, infatti prima gli mando un messaggio. Poi. No, ma me l'ha già detto che di portargli, solo che gli ho detto, dimmi quando c'è tempo. Quando c'è tempo me la porto, gliela porto, come ho fatto con l'analizzatore. Ho trovato un momento che era libero, mi ha mandato un messaggio e ci siamo trovati. Eia, va bene, portaglielo allora. Io almeno il 140 me lo so fare ancora, gli altri no, ma almeno il 140 già me lo so fare ancora. Già me lo faccio io, va bene. Lo sa fare anche Luca se per quello, non c'è problema. È una stronzata, non c'è da fare solo quel trimerino dello slider, c'è da fare due passaggi sul microprocessore, basta, ma è una fesseria, solo che devi sapere qual è il microprocessore. Va bene, fai tu, fai te camomilla, avanti o Tino riprendi, vedi già c'è Luca, dai. Eia, vabbè, niente, dai, faccio una cosa al computer, io sono qua in Corex che mi ha ritornato la connessione, se no non ce la faccio più a farlo. Fai T, già siamo qua. Grazie. Dopo T, se hai due minuti, passa al 20 che ti faccio sentire una radio che proprio mi ho fatto, mi sono preparato, sempre K, eh. Vai, sono qua io, ce l'ho lo scotch inserito. Al 20 sì. Via. Attenta, cuffetta. Andiamo. Ehi, Luca, stavo registrando la radio con Tino, che mi hanno detto appunto che era era troppo, come si dice, troppo alta, dai, me l'ha regolata lui. Senta. Mi senti, Cla? Figliela. C'era il volume basso, cazzo. Ti sento, ti stiro e ti ammiro, come dice il Capitan Ventosa. Adesso la Luca! E gli cambio il potenziometro, non è l'altro Luca. Stanotte stesso, la smonto già che glielo cambio. Perché questo qua è caduto in terra e si è un po' fatto barritosto, è un po' duretto, dai. Ah, così, eh. E comunque c'è un sacco di scariche elettrostatiche io, Vuol dire che sta arrivando l'acqua. Abbi sicura. Arriva l'acqua. E noi ce la beviamo. E non è meglio il vino. E beh. Cosa vai, grazie a Bozzi? Faccio meglio, mi senti. Eia. Senti meglio? Sì. Sì, va bene. Mi sono spostato. Ti sei spostato dove? In cantina? No, nel tavolo. Prima ero dall'altra parte. Adesso sono nel posto giusto. Già va bene, già ti accoppio. No, sono sceso dalla madera col gatto, un randaggio che viene ogni giorno. E mai zitta. Cosa c'hai, un randaggio? Un gatto di quelli randaggi. Viene ogni giorno e mi aspetta. O scendo io, mia moglie gli do un piatto a mangiare. Ho preso delle scatolette e glielo do. Si conferma, va bene. È ancora diffidenti, non si avvicina assai. È un po' diffidenti, sta andando piano piano avvicinandosi, però ancora a un 2 metri distante si rimane. E se mi avvicino io si pucca, sta via, si mette più lontano. Ah, così è. Allora non ti conosci. No, già mi conosce perché molte volte quando è giù lo chiamo, alzano gabbo, e forse rimane senza mai i denti, meno come da dire, ma non me li farà mangiare. Hai mangiato? Sta mangiando, a faccio lo sbrana, tutta la scatola gli hai messo. Che me ne dà un po'? Oh. Ma rimane giù da 3 volte, 3 volte a mangiare, fa male da va via. Gatto, ogni 5 minuti mangia. Qua ce n'è un bello stesso e glielo danno. Stamattina c'è una signora, fa sirugliro, la tutti a mangiare. A voi 10 minuti sono tornato tutti no che si fa la mangiare. Ma lo sai, è buono perché prima qua è nel vaso di tuppi. Anche lì di fronte al grattacielo qua c'è la signora ogni anni para 3-4 volte in tutta la lì e viene a 2, va via a Buruncani, Bovaraccio, l'hanno fatti pranzi matti mia pensamente a Rubento e su Gani c'è sempre a Baggiani, c'è sempre a sinistra da Reddu quando li venivano a mangiare fa tutti pranzi matti. Poi un giorno la calzata di un cane grosso che fa una in ogro grattacielo. Poi da là si è avviato e mi hanno detto che l'hanno trovato morto sulla bretella, l'hanno incazzicato. Vabbè, la gente purtroppo non comprende quanto è importante anche avere cura dei cani e amare i cani, ma vabbè, siamo aperti. Era bravo qui, un cane così bravo, andava sempre appresso agli studenti qua, la mattina, che gli davano il pane, merendine, e non disturbava nessuno. E chi succede la voce, che la cazzata, chi succede? Se ne è andato, che i veterinari erano venuti qua, perché cazzo, venivano sempre i cani, Maria Uncalini. L'abbiamo bruciato e l'hanno crassato, la femmina ce l'hanno portata, ce n'erano due pastori male mano erano. E hanno lasciato solo questo qua. Vabbè, comunque già ce n'è troppi cani in giro, Incustoditi, ce n'è parecchi, però bisogna anche cercare di tenerli a bada. Ma un bel tutti, allora, beh, uno no, che viene a due di cane, una specie di barboncino e un altro pelo liscio, cioè, baci. E come ti ricappa, dritti andane a un visore piatto di atti. A mangiare male addirittura si è appuntato rubiato, che su quello bello liscio. E dello salto di cazzo ha fatto, non per la nuda si è appuntato rubiato. Perché lui magari sente l'odore, capito? Sente il profumo del mangiare e quindi si ce l'ha portato baliscio. Che un bel po' che ne ripongo un bel insaiata, non se lo mangia a tutto. Come ti passa niente, buco dritto la piazza, se lo mangia nel tutto. E se lo ringhi, era da cavalli, per baciare male è giunto, era tutto. A chi la piazza se l'aveva mangiato tutto. Un 10 minuti prima c'era il gatto. Ha pigliato rubiato e si sarà buccato in bocca, si è aperto con rubiato, lo salto di gatto ha fatto. E ormai che darò da fuori, sono proprio sotto. E vabbè, lo vedrai, ma cosa vuoi che ti dica? Invece la che l'ha passata aveva un pezzo di pane, anche l'ha un burbezzo di pane, no, proprio il male si cane così. Ha pigliato un pezzo di pane, si è stato in un vascone, ha cavato l'angolo, l'ha sotterrato e poi col muso l'ha coperto e si è avviato. Aspetta, sì, mi sta chiamando mia moglie. Sì, già, Luca e me, manicomio, morto sì. Sulle mura andiamo, chi è morto sono là? Pasticcini non te li ho mandati alle 4:30, che mi stavo bevendo il caffè con i pasticcini. Sì, già me l'hai detto. Già me l'hai detto. E io ho fatto una torta di mele. No, torta di mele, una giornata del gruppo, adesso no, non la sto facendo questo periodo. Quando vera mia migliore in casa, una di vera torta di mele. Però già mi piace, ma si stufa anche. Ah, e beh, certo. Saluti, mi faccio rudente, a chi c'ho ancora rudente. Giorni Maria non si è sentito, boh. Andiamo qui, andiamo, che se? E beh. Andiamo qui, andiamo, buffetta. Sì, mi sto facendo lo spruzzo a che mi viene nell'affanno, riprendi. E beh, non mi sei andata a ciocca, Luca. No. Come mai? Perché non ci sono andato, grazie. Ma rimani, mi vogliono venire l'antuna. Indovina quanto lavori a Bagata, non era giubilato. A prima volta 25 euro, ha detto mamma così. L'antuna? Sì, ma mi pare gara a 25. Ha detto no, no, non è vogliono, cazzo troppo cara la vuoi, e cos'è d'oro, e la brigando la goccia non è venuta, ah, la capisci. Cosa stai facendo? Allora, ho un problema su un televisore, praticamente lo accendo e mi esce inizializzazione, se riusciva a risolverlo. Non ce l'hai il foglio di depliare lo schema? No, me l'hanno regalato. Il schema non ce n'è disegnato all'interno. In genere c'è quel pezzo di carta attaccato con tutto lo schema. Ma non c'è nulla, non c'è un contraccomando. Viene da uno oggi, su compra e vendo, regalendi l'ira, le grandi mi. Però era da controllare e non si vedeva il quadro, ve l'ha scritto. Sarà un'occhiata, ma di solito, come si dice, di solito è i LED bruciati. E non è che vuol dire che si sta caricando, no? Questa scritta inizializzazione in corso. Non è che si starà caricando, no? Boh, è a caso che fine ha fatto? Cosa? Ho detto, Claudio, che fine ha fatto? C'era sentato, mi ha detto, che lo voleva, l'ha pagato la moglie. Mi ha ordinato il casco, mi arriva domani, Bartolini me lo porta. Grigio me l'ho comprato, con la visiera. Buffo. Dimmi. Che faccio? Nulla, guarda nel cellulare così. Sei oggi una di fea. Sei burata, rimani romantessi, oggi romantessi. Mi fai un televisore, dici bombate, dici vici. C'altro coraggio su io, 50 euro. Monitor, 10 euro. Tu ti già fa bocca, cazzo, ma se usi fa farsi male, fa male. Cosa? Il cane, grazia. Sempre c'è il bisogno di morsicare. Oh, e levagli la lentiera. Infatti c'è tutto un ciaffo a bocca, anzura. Piano, perché è piccolo. Si attacca, stringi, stringe come. Che è minore ancora, gioca. Paedo, mi sa che ti fai male, paedo giugheni. Ho capito, ma proprio mi si è agganciato al pigiama, cazzo ci compra comprato la strada di nuovo. Grazie, mi piace tutti gli altri bucati, un risaltatore o con altre cose. Cazzo, e poi da bucarmi pure denti su. Sì, quando sono minore di giuga, anche quando va via a ghita io, giugava, ma mi combinava poco di corsi. Lì, non salire lì su, mi girava e stava a pucca. Ehi, dai, grazie, se mi assento vado a farmi una doccia, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, vai già sul ginocchio, c'è acceso. Se ci sei dopo, sempre giù per te. Ehi, ce l'ho acceso qua. Beh, Platinetti. Luca è andato a farsi la doccia, là. E Luca Flipper non è entrato? No, non si è sentito. Beh, non so cosa cazzo è convenendo, chi? Non l'ho sentito, all'inizio quando ha acceso e poi non l'ha sbintito. Non mi ha risposto manco al messaggio. Non è che è andato a casa della suocera? Non so, no, c'era Danilo con lui. Sicuramente stanno facendo cosa, non lo so. Allora sicuramente sono là. E la borellica che cosa? Vabbè, dai, già sono qua. A dopo. Ehi, già ecco, sono qua anche io, senza qualche uno c'è acceso, ok? Gappa, gappa. Buonasera. Buonasera, avanti. Beh, ti ho visto l'altro giorno con la moto. E dove? Ah, ma salendo o scendendo? Forse stavo scendendo. Con chi stai parlando, grazie? Non ti sente, Claudio. Con chi stai parlando? Grazie, con chi stai parlando? Non me lo ricordo il nome. Avanti, aspetta. Avanti. No, la polizia no. Gianni, non più rum, là. Ah, fallisce che non arrivi oggi. Va bene, non lo sento io, non arriva qua. Vabbè, perché si avvicina a noi, capito? Era lui. Gianni, doppio rum. Io arrivo anche lontano, Luca, non arrivo solo vicino. Arrivo. Parlando sta, non arriva qua, cazzo, boh, io non riesco a comprendere, arriva nei tutti e non arrivi, cazzo, boh. Io arrivo dappertutto già, da tutte le parti, ottava, vabbè tu ci hanno dato una buona lì, ottava, lì punti si a voglia, lì una bomba. E vabbè, Claudio per esempio da casa, stai amarrotto, mamma mia, sto che mi sta rompendo le scatole oggi, sta rompendo le scatole, guarda, è ingiugazzata, è rompendo le balle. Sì, ma ho capito perché tu da lì, dall'altro ci arrivi, è lui che è più vicino a me non arriva. Cosa? Ogni tanto prende ciaffi a bocca, biglia. Cosa hai detto, Lu? No, stavo dicendo a Gianni che ogni tanto prende ciaffi a bocca al cane. Ah, così è, Io ti stavo dicendo, come mai tu arrivi con l'antenna in gomma da Latte Dolce e lui che è più vicino a me e più alto non arriva qua? Oh, tu già lo senti a classe? Sentendo a me. E tu arrivi a fondo scala, massa di nevaria. Sentendo a me con l'antenna in gomma qua. Tutti sento con l'antenna in gomma, a tutti. Cazzo sento la Gio Maria da dentro il magazzino. Già l'hai visto stamane, invece Gianni non mi arriva proprio, cazzo, non lo sento. E non può dire che io non ho antenna, no. Va giù un'antenna a 40 metri d'altezza. Arriva a fondo scala Alghero, da tutte le parti, Porto Torres, da tutte le parti. Quindi è un problema proprio tra me e lui, Perché lui c'ha una foto da 13, c'ha. Che lo impedisce per arrivare da te. Ma secondo me quell'apparato c'ha pochi watt quel portatile, Ma da portatile, un baffo. Ah, cos'è un baffo? Non lo so cos'è, chiedeteglielo qua, non arriva. Sicuramente è per quello, se avesse avuto un Baofeng sarebbe arrivato bene, perché c'ha più potenza. Se si chiama lo vado nelle voltate e mi sentivi bene, figurati. Certo che sì, ma quello di Gianni penso che non sia un Baofeng, È un Intec omologato. Un Intec omologato, tocca. Un Intec omologato? È per quello che non arriva, va un vatto e mezzo. Poca potenza già, compratelo un Baofeng, cazzo, compratelo, e costa 25 euro, cazzo, almeno c'hai più potenza e ti sento. Non ne faccio una malattia io, mi sento per salutare, lo uso molto questo. E adesso l'ho sentito, non ne faccio una malattia, lo uso solo per salutare, appena poi sei sparito. E allora è questione di potenza già, è questione di potenza, vabbè, cosa c'entra? Ma ce l'hai e ti fai sentire, no? A me mi dispiace che io non ti sento, cazzo. Vabbè, chi mi sente, dai, non c'è problema. Avanti, Graziano. Gianni, e allora, io già ti sento, un po' basso mi sembra, prova. Guarda a vedere, basta, sta arrivando uno del tre. No, ero io. Cioè avevo la radio più abbassata. Già sta uscendo bene. E allora cosa mi racconti? Freddo c'è. Ero sotto le coperte sì da adesso, perché mi sono venuti i primi di freddo, mi sono addormentato un po' pranzo e ero tutto freddolito, mi sono messo a coperte. Ma tu no, lascia male, ma li avevi tu. Invece, dopo di un'oretta, Macciaro e verrà il tuo vento. Allora non mi sono cucito. Vabbè. L'altro giorno ti ho visto tutto quanto... Sto sparato, sto bellina quella moto, io non ne avevo mai visto così. Perché non ce n'è qua, a Sassari di quelle, non ce n'è. Non so quanta gente me lo sta chiedendo dove l'ho presa. Anche ieri che sono uscito lì a Sant'Orsola, un signore me l'ha chiesta, mi interessa, caspita, è proprio carina, proprio quella che sto cercando io. E gli ho detto, se legga lì, guardi su internet, con quella sigla lì e vede che già la trova. Solo devo aspettare se la prende dove l'ho presa io o un mese e mezzo per via del Covid. E fanno questo ritardo così, se no un mesetto ci mette andando bene bene. E dove l'hai presa? Perché grazie a oltremare. Sì, che passa col Covid, di grazia. In Gran Bretagna l'ho presa, nel Regno Unito. Ragazza, anche la Bretagna l'ha presa. E come ti è arrivata questa moto? Come l'hanno portata? Imballata col cartone era. Ho capito. E una scatola grande c'era, ma ridotta, arrivata la scatola. E poi c'era una pedana ed era nata una pedana manna in legno. Infatti mira, deve sapere tu che scossone o in camion o in nave, e c'era la ruota di dietro incastrata nella pedana. Infatti mi ha rotto un pezzo di plastica dove blocca la cuffietta del motore, no? Ma gli ho mandato lì e mi l'ha rimandato da Nuva in 3 giorni in aereo. Me l'ho mandato nuovo. Quella è una placchetta che ci mancava, che poi l'ho trovata dentro la moto, questa placchetta. Però io al momento non l'avevo usata. E carica batteria. Ah, se non hai dimenticato la metà, avanti tu, Luca, non già. Claudio. Luca, mi ti ha rilanciato. Senti, parlate voi, perché io se non lo sento è inutile che sto a parlare, dai. È vicino a voi, parlate voi, lo stesso discorso che facciamo il 27. Io se non sento, come faccio a rispondere? Dai, parla con Grazia, con Gianni, con Luca, io già rimango in quel rix, dai. Ok, ci sentiamo dopo. Ciao Gianni, comprati un Baofeng che vedrai che anche da me arrivi. Come me non ti sente Claudio, Gianni? Dai, io non lo so. Io forse la zona, non lo so. È la zona negativa per me, anche Pompugno non mi sente. Ebbene, non vedrebbe già mai l'antenna in su a quel boyfriend. Sì, già vedrebbe già mai, aspetta che per voi, la mettiamo là. E prova un'altra, se no te la prendi una di chi come ti vira giù e ti la attacca alla ringhiera. Ma non lo so, grazie a se quella lì si può modificare l'antenna, capito? Non è un problema mio, Gianni, stanne pur certo che io ho l'antenna sul tetto e arrivo in capo al mondo. È un problema tuo, che non riesci a salire il segnale verso di noi, perché neanche Roberto ti sente, neanche Pomponio, non solo io. Ti sente solo la parte bassa dove abiti tu. Quindi o cambi o ti metti un'antenna e usi lo stesso portatile, ma l'antenna ti costa quanto il Baofeng, quindi 25 euro di compareggio il Baofeng che fa 5 watt e vedrai che arrivi. Ehi, c'era anche di me, non ha giù visto il Baofeng in quel sito cinese, mi pare era 18 euro, quello che c'avevo io che l'ho venduto, però funzionava bene, boh, e c'aveva 5 watt anche, però io ne ho un altro di questo che ho qua, se gli interessa glielo vendo. Più squillante, Claudio, lo senti adesso? Sì, adesso lo sento, basso basso ma lo sento. Che antenna è, Gianni? Con questa ti sento. Basso ma ti sento, segnale non ne hai ma comunque riesco a capire la voce, cioè, capito? Mentre l'altra non ti sentivo per niente. Questa sicuramente va meglio, va molto molto meglio. Ma sei dentro casa? Mi senti? Sì, sì. Mi ha chiesto se sei dentro casa, già, ma non lo senti. Adesso perché sto girando dentro casa, capito? Lo sento. Trovati una posizione dentro casa, cazzo, una posizione trovati. Guarda a vedere adesso come va. Lo vedi poco fa, ti sentivo benissimo. Allora in camera da letto, dai. Oh, grazie, non lo sento più io. Adesso era in camera da letto, mi ha detto. No, in camera da letto non lo sento. Gianni, non ti sente dalla camera da letto? Pesani i giappi e vai dove ti sentono. Claudio, l'hai sentito? È andata bene, capito? Adesso lo senti? No, prova dalla cucina a vedere. Arrivi benissimo. Dove sei qua nel salone? In camera da letto ti sento, non va bene. Tanto la radio ce li hai lì. E Luca è combattente con Lugani. Ehi, basta darli io, quando era piccolino ho comprato il Gigi Votto. Glielo davo, tanti a tutta la di Ruzzeghendi. Poi non morsicava più, se no stava sempre morsicando i piedi. Va bene, adesso ti sento, da camera da letto ti sento, è già. Un attimo che rientro subito, che mi ha fatto lo spruzzo e devo andare a scioccarmi la bocca. Ok, a dopo, va. Anche Filippo li ha cambiati. Aspetta già che devo girare il riso, sennò mi si attacca tutto. Aspetta che è andato in bagno Graziano, arriva subito. Gianni, ci sei? Gianni? Ma Graziano è rientrato? Io ho detto che stava a farmi una doccia, l'ho detto prima. No, Graziano, tu già abbiamo sentito. Oggi mi toccava a me, dai, cazzo, 2 settimane senza farmi una doccia. Vai, blattinette. Anzi, no, 3 settimane. Oggi mi tocca, dai. Infatti c'ero buoni buoni più di 20 minuti sotto l'acqua calda. Marcoci mi bavi, vi credo. Cazzo, Luca ha letto il messaggio ma non mi ha riposto. Beh, ma era asciutti, cazzo. Cazzo, ho un vizio brutto io, mi piace lavarmi. No, io no, Lu. Oh, aspetto l'estate. Beh, d'estate magari 2 volte al giorno, così. Poi mi sciacquo anche al mare, nell'acqua, cioè lì nelle docce, con l'acqua dolce, poi vado a casa e mi la doccia. L'inverno basta dipende, dai, se non fai niente basta una voglia. Se te ne fai 2 te lo fini la pelle, capito? Ma dipende, comunque anche 2 me ne faccio d'inverno. D'inverno 2 sono troppe. Poi mi si consuma troppo. Perché mi? Mangaglio, tra. Allora, se 2 sono troppi, 2 era lì, sono troppe. Una va bene, se si consuma lo cornicione. Attento, Flippe! Poi ne mando un altro messaggio, esci a vedere. Fa male qua, spezzo la doccia, te lo dice anche il medico. Basta una volta l'inverno. Mica se ne sia male che gocce, a pittori nudi, l'inverno è diverso. Andrei, penso che... Ma se voglio. No, non ci ha detto niente, infatti, gli ho detto, ma per sanificare il percorso, non ha detto niente, ha detto no, per sanificare la macchina. Non so che rovina il pH della pelle, c'è gente che se la fa anche 3. Vabbè, dai. Palli! Buonoso. Guarda che ci sono certe persone, ma maleodoranti, mi. Ti tavvisini e ti cibucci. Allora, io ero a un circolo, cioè avevo tutti i capelli lunghetti, caschetto, un tipo che mi abbanza. E tutte le distanze, mi ha fatto anche da bella vita, ma aveva un fiago in nato, non si comprende se era fiago di gaggio, fiago di fiago di strano, comunque era sporco. Per dire, quando io lavoravo alla Carpetrol, che consegnavo olio combustibile ai panifici, al forno, Maria è su bianco buccioloso, si può fare 3 mili a doccia, la lì, sempre un bianco innanto va via, incarnato era. E anche quando lavorava al distributore di benzina, tutti mi lavano tanto di bianco, ma lì sempre bianco di benzina. Chiamalo boss, immagina. Anche quando era all'Agip, che lavorava all'Agip, tutti i bambini fanno 1000 dolci alla di. L'ubriaco della benzina mi aveva sempre in nato e c'è anche di incendia lì. Si intende una registrazione. Da poco credo che saranno pronti prima di chiudere il tempo. Hai detto qualcosa, Andrea? Sì, ho detto qualcuno ti sta avvertendo, quindi credo a breve. Quella registrazione, cosa è? Baracchino. Sì, Andrea, stanno arrivando adesso. Comprendi una cosa, cazzo, perché ci mettono a traslare, non si comprende nulla, è tutto disturbato, si intende un casino di voce, è tutto rumore, Ma non si trasla però, non si fanno queste cose. Ah, lo passo da te, grazie, senti. Alla grande, tu mi senti? No, non è da voi, no. E qualcuno basso basso, infatti. No, io arrivo a fondo scalo, questo qua è meno di uno, lampeggia. Qua segnale non ne ha, quindi non è da voi, non è vicino a voi. È da qualche altra parte. No, intanto tu passi. Luca passa. Si sta sporcando questa frequenza, si sta veramente sporcando, mi dispiace dirlo, dai. Io vi saluto, ciao a tutti, QRT. Ciao Claudio, alla prossima. Riprendi Luca, tanto a me. Non mi tocca manco l'ubbero. Ma passati. Passati tutti. Sì, infatti quando parla Claudio non lo disturba nessuno, neanche quando parli tu non si sente, perché è più debole, capito? Cosa sei combinando, va? Sempre col televisore stai Thank you. hanno già chiamato per sanificare la macchina. Questo signore qui. Mi senti? Sì che ti sento. Prova a fare l'altro passaggio. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Mi senti bene? Dimmi, sono i segnali tutto il resto. Buono, buono, già ti sento bene così. E io bene ti sto arrivando lì. Grazie, che antenna stai usando? Antennino c'ho. Antennino quello 15 centimetri fine fine. Ah, non ce l'hai l'antenna esterna per questo? Sì, ma lo sto usando perché devo mettere il filo in terra, lo devo spostare ancora. E se passa mia moglie e mi dice cosa, gli dà fastidio e allora lo uso quando non c'è lei, lo uso quell'antenna là. Ah, ecco perché. Allora non lo mettere, se no ti tocca comprare la nuova, mi. No, quando non c'è mia moglie già me l'attacco, perché il filo passa in mezzo in cucina, capito? E si passa da che una volta giù ma è trampa e mi ha fatto un casino. Allora quando non c'è la già la uso, ma quando c'è no, se no mi zigosa. Ehi, me lo devo spostare allo sgabuzzino e lo passo sopra i pensili, già non si vede. A chi mia moglie gli dà i fastidio tutto. Dilli che è un mattone che si è arrotolato. Mi dice cosa, però non ne può vedere cosa ha piccato così in giro, volante, compriccio. Non rimbiati, e me la poi mi fa, mi piglia a e mi fa il casino. E so cosa è porca e pulca. E poi non lo sai come sono le donne. Ma in salone li date a fastidio, in camera li date a fastidio, in rocchi li date a fastidio, ma insomma carriera mi aiutando, boh! Di vero, mica devo andare in carriera a farvi da cura amiche miei, che vero coronavirus. Ma non basta che un po' di voci si buoni a buruetta a farvi da. Ah, quando fa vedere di non ti ha sbattito, quando fa vedere ti ha sbattito, boh! E non sai che questo... Danilo, mi senti? Danilo! Danilo, lo senta Claudio! Aspetta Claudio, che metto un attimino l'antenna, quella più grande, che ti sento a tratti. Ehi, metti la tua antenna, metti. Claudio! Eia, dimmi, grazie. Sta cambiando l'antenna perché ti senti fa a tratti. Ehi, già ho capito, già arriva qua Danilo, non c'è problema. Volevo sapere che fine ha fatto Luca, beh. Ma io? No, Flippe. Musco. Non rispondi manca ai messaggi, cazzo. Chi ci sta su un ubraggiere in terrazzo, vuol dire da russita. Danilo. Danilo, caduto sì. Danilo, oh, Luca va ancora coricatosi, Luca! Eia! Adesso mi senti? Danilo, mi senti? Eia Lu! E io ti ascolto bene. Come mi senti? A me è perfetto. E cosa a fondo scala? Sì, da. Diciamo che la radio è un po' disturbata, comunque ti ascolto bene. Ma sei a Sant'Orso, la bella forza l'intendi tu. Voglio vedere se arriva qua, Dani. Sì, ti sento io, Clau. Ah, ho detto, Luca, che fine ha fatto? Io l'ho mollato che erano le 6. Adesso non lo so cosa sta facendo. Vabbè, dai. Riprendi, Grazia. Ehi, adesso già ti sento bene bene, Dani. Ok, riprendi lui. Ehi, anche io lo ascolto, va. E vabbè, tra un po', Grazia, vado a cenare e poi vado a prendermi il tram, va. Entra, ti ci levazza, ma sei qui o su? Qua sono, a casa entra, ma perché? Cosa le fa? Va bene così, va bene così. Ah, ti tratti da noi che entra, ho capito. Ehi, tappa di vecchio, è freddo pure. Sta facendo cosa, Luca? Già entra dopo, ho detto. Luca, la detta. Luca, pannolino. Ha detto, sta facendo cosa, già rientra dopo. Luca, tre ruote. Tu, Clau, adesso com'è che mi senti con questa qua? Meglio di dell'altra. L'altra non hai segnale, qua appena appena hai segnale ce l'hai. Ah, meglio così, da. Vabbè che sto usando il portatile con l'antenna esterna. E niente. Sto usando quell'antenna, quella là, e basta. Ascolta, ma del 140 hai detto, hai sollevato il trimerino che c'è dietro lo slider, quello lì? Sì, quello che c'è sotto il display, in poche parole, dietro il display. E l'hai messo al massimo? Ebbene, non ha migliorato niente. Sì, ha migliorato, però no. Luca mi ha detto che non sto uscendo come devo uscire. Ebbene, normale, perché c'è da fare un altro lavoro, capito? C'è da fare un altro lavoro sul microprocessore, dei lavori fatti bene. Quello è il trimerino che si solleva per dare più Mickey Gain, capito? E basta. Però per il resto c'è da fare un altro lavoro. Perché abbiamo sollevato anche i watt, senza parlare, tenendo la portante fissa, senza parlare sono a 50 watt. Quando parlo va in oscilla. E quanto oscilla? Più 10, più 20, quanto oscilla? Oh, va, Danilo non è caduto dall'antenna. Grazia. Danilo sta oscillando. no costo proprio andando, Luca. Eia. Ti prendi. Eia. C'ho fame, Grazia. Se esci da sola la mangia e fammi, boh. Aggiù fammi, cazzo ansura. C'ho fame. Ma mangia di cacanti pazzo, avanti, che cosa? Poi ceni. Io voglio fame, io già aspetto. Lo c'ho fame, sì. Eia. Ah, io già faccio gli spaghetti con i vongoli. E un polpo con un sughetto. Bello bene. Ah, ecco la pavurena faccio. Grazie, faccia assaggiare il polpo. Assaggiare? Ci deve dare, se cuciniamo noi. È ancora meglio. Ma Marina l'hai sentita, Grazia? Ha messo a cucinare il più piccolo stamattina, perché ne ho uno grande nel borsetto. Buonarello, Ciao Marina. Sei andata in cucina a preparare. È in cucina. Ma un paio di dosi di coccoli dove si approdano, non gliele vendi, no? No, lascia. Faggio pure un coccoli, la sacchetta. L'altro giorno se li ha fatti mia moglie. Una coccoli che ha un pugno. Però io non le mangio, non le posso mangiare. Sono allergico. Doveva venire a manco uno vivo. Però c'erano buoni, oddio. Erano commestibili, dai. Cazzo, Grazia, aveva vedato in Paraluca, non ci ho preso nulla. E ho capito solo che... Ehi, intanto adesso piove di nuovo. Quando piove, se vai a Lumacche e a Lumacconi, ok, me ne lasci un po' per me, curi di Napparo, se no ti rideni. Vai, proprio a braccia. Capito, Lu? Eia, non mi senti, Clau? Sono udiori. E tu vai e buffami la brancia. Vabbè, No, perché c'è un altro anche che ha chiamato, però sei passato tu. Chi è che mi ha salutato? Ehi, ciao Claudio, ho detto. Chi è? Sì che ti sento, chi sei? Franco. Franco Lassoso. Ma altro la due di che ti sei attaccato l'MC60? Si è attaccato l'MC60? Ehi, c'era uno sicuramente che si è inchiodato il microfono ed era della trende dallo 23 ai noghi. Se ce l'ho attaccato a che punto io l'MC60? Al? A che punto l'MC60? No, no, ti sto chiedendo se per caso eri tu, non riuscivamo a capire chi era, capito? Oh, il capitano non l'ho visto. Poi, a parte che sono guardato abbraccio, ho guardato 5 minuti. Ehi, ehi, Avrà, ti sto solo chiedendo. Stiamo solo chiedendo, non ti preoccupare. Sicuramente qualcuno che ha toccato con il braccio ed era traslende dallo 23 ai noghi, capito? Va bene Franco, buonasera, ben ascoltato. Grazie, lo senti a Franco? Ehi, ciao, ben sentito Franco, però non lo sento pulito pulito, è un po' gracchiante. Sarà la radio doia che gracchia, e no che arrivi bene. Danilo, tutto ti sei copiato. Comunque Luca sta tarando l'antenna e poi entra. Franco, mi senti? Entro dopo che devo fare cosa? A dopo! Andiamo bene, andiamo! Gufo! A posto Andrea! Tutto a posto Massi, Francesco tra 20 minuti è lì. Niente, Nino si stava... ha chiamato per accertarsi che non volessimo sanificare la macchina. Ha detto no. Ma ve la fate voi? No, no, ad Alghero. Ah, ok. Bisogna avere pazienza con Nino perché ha imparato l'italiano da qualche anno, ancora non è, quindi magari non capisce bene quello che gli abbiamo detto. Che ore sono, Andrea? Beh, tutti spariti siete, Claudio. Ho detto che ore sono, per favore? 9:20. Lugarie, mi sto preparando, sono già le 7:30 per portare a Filippo. Ah, ho capito, la guarda sta preparando la cena, Marina, dai. Vabbè, faccio un po' di antipasto, va. Ehi, ehi, no, ma sono qua, è tutto acceso, mi sto preparando, poi già ritorno, non c'è problema. C'è Luca che ha finito di tarare l'antenna, mi ha mandato il video. Perfetta quell'antenna, ragazzi, una gannonata, uno e uno in tutti i canali, c'è. Sto guardando il video di Luca, aspetta. Ehi, me l'ha mandato anche a me, perfetta. Luca rientro fra 10 minuti che sono andato a fare l'insulina con la signora, ok? Chiama, chiama l'insulina. Luca, mi senti? Grazie.